Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Cosa avete in tasca e cosa avete in testa? Sembrano due domande apparentemente sconnesse, ma sono il filo conduttore della puntata di oggi. C'è qualcosa che negli ultimi decenni si è spostato dalle nostre tasche alla nostra testa e qualcosa è cambiato dentro e fuori di noi. La società del denaro non coglie la bellezza del mondo e neanche il suo affanno. Riduce l'uomo a un salvadanaio che si può rompere troppo facilmente, lasciando solo dei cocci. L'uomo non merita di diventare un contenitore di monete. Questa è la follia, oggi talmente diffusa da sembrare normale, ma non lo è. Abbiamo appena sentito un breve estratto da un libro che sta avendo uno straordinario successo e che diventa protagonista della nostra puntata, Il denaro in testa. L'autore è Vittorino Andreoli, uno dei più autorevoli psichiatri italiani, che è in linea con noi. Professore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. In studio qua con me Alberto Pellai, medico, ricercatore all'Università di Milano e psicoterapeuta. Ciao Alberto, benvenuto anche a te. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Professor Andreoli, che cosa ci fanno i soldi sul lettino dello psichiatra? Dimostrazione implicita della frase da cui siamo partiti oggi: soldi dalla tasca alla testa. Beh, vede, è questo un campo degli economisti. Il denaro ormai è il tema di una scienza, però anche uno psichiatra nell'ultimo periodo, ma proprio anche negli ultimi mesi, ha potuto verificare che in molti casi le persone che si rivolgono a lui per raccontare il loro malessere, il loro disagio mentale e qualche volta la loro depressione, quindi vere e proprie malattie, si vede che parlano di una causa che per me era un po' strana, perché la causa spesso di questi disturbi è data proprio dal denaro. Ma professore Andreoli, ci aiuti a capire, l'ossessione per il denaro è diventata una patologia in sé oppure è un fattore di rischio che complica, aggrava oppure fa insorgere le patologie classiche che sono nel manuale di diagnostica psichiatrica? Ma dunque, innanzitutto io non mi occupo dell'aspetto sociale. I ricchi e i poveri sono due categorie sociali che cambiano nel tempo, oggi parliamo di nuovi poveri e questo si lega ad una diversa e ineguale distribuzione dei beni di una società. Insomma, questo è un problema di grandi numeri. Io come psichiatra mi occupo di un uomo o di una donna o di un ragazzo alla volta e per me questo rappresenta un mondo e vedo le persone che soffrono, quindi, perché vedi, i disturbi mentali non sono altro che una forma di sofferenza, anche se non legata a qualche parte del corpo, ma è quella sofferenza di vivere, la fatica di vivere. Ebbene, sempre di più in questo ultimo periodo il denaro non è un rischio, ma è proprio il personaggio, mi permetta di dire, è il batterio, è il virus che causa la depressione. Vede, la cosa che più mi ha colpito negli ultimi periodi è stato il caso di una persona che mi ha parlato di lutto da denaro. Ora, il lutto è una figura, è un tema classico per i disturbi della mente, per la sofferenza, è appunto il senso quasi di disperazione che si prova di fronte alla perdita di una persona cara e sembra di non potercela fare, di continuare a vivere senza quel papà, senza quella persona cara, la propria moglie, la propria compagna o il proprio compagno. Ebbene, sentire parlare di lutto da denaro, cioè di una sorta di disperazione, di incapacità ormai di vivere, di insicurezza, perché si è perduto il denaro. Quindi il denaro, per rispondere alla sua domanda, è diventato una causa di patologia. Certo, oggi nessun manuale contiene il denaro per la psichiatria, ma penso che io ho incominciato e forse sempre di più ne sentiremo parlare, a meno che non si capisca che può essere un vero pericolo. Money, money, money, money, money, money. Denaro, denaro, è La domanda per voi, cari amici, è d'obbligo: che rapporto avete col denaro? Rimane nelle vostre tasche o ha guadagnato spazio nella vostra testa? E cosa vi dice? Quali pensieri, quali azioni vi sollecita? Oggi abbiamo pensato di fare una sorta di sondaggione. Scriveteci 349-238-6666 o chiamateci 800-24-0024 per esprimere la vostra opinione. Alla fine della puntata uno di voi, in collaborazione con IBS, riceverà una copia del libro del professor Andreoli, Il denaro in testa. Professore, ma facciamo subito chiarezza: questo non è un libro che mette ricchi contro poveri, che afferma che la povertà è un vantaggio e la ricchezza è un limite, perché lei quando parla di denaro lo fa come una cosa che un'ossessione che mette tutti sullo stesso livello, i ricchi e i poveri. Proprio così. E ma cominciamo a dire che è ben lontano da me trasformare il denaro in un demonio del tempo presente. Il denaro è un segnale dello sviluppo di una società e poi indica anche una storia, quella piccola storia delle famiglie, di una popolazione che ha saputo tirar fuori la vita dalle rocce, insomma con fatica. Quindi è un segnale positivo, purché rimanga un mezzo, purché si, appunto come lei diceva giustamente, rimanga in tasca e lo si tiri fuori quando serve per facilitare la vita, per riuscire a fare meglio una cosa, per andare a fare un viaggio, mandare i propri figli a studiare in un luogo magari dove possono apprendere di più. Il problema è quando passa nella testa, che cambia il modo di pensare, cambia persino il modo di relazionarsi. E io le porto solo un esempio rapidissimo. Pensi che il denaro, quando va in testa, non serve solo a dare un prezzo alle cose. Le cose hanno un valore in base al loro prezzo, ma persino l'uomo comincia ad avere un prezzo. E persino la bellezza che è così diffusa, che è una delle caratteristiche della nostra specie. Ecco, allora, in testa il denaro fa disastri, cioè genera patologia, in tasca magari ben tenuto, piegato bene nel portafoglio, senza sprecare, magari può essere veramente uno strumento utile. Voi come la pensate? 800 24 00 24, fateci sentire la vostra voce. Rimane il problema, professore, che in tasca c'è qualcuno che ne ha sempre meno e si trova suo malgrado a trasformare il denaro in un'ossessione di cui non vorrebbe occuparsi, cioè penso ai molti pensionati, ce lo dicevano le ricerche, proprio le statistiche ultimamente, un sacco di persone che devono vivere con meno di 500 euro al mese e che automaticamente si trovano ogni minuto della loro vita a dover fare i conti non col denaro che non hanno o che hanno perso, ma con quello che non c'è e non basta per sopravvivere. Anche questa è un'ossessione della... Guardi, questa la sua osservazione è giustissima, tanto è vero che si potrebbe semplificare dicendo che ci sono problemi mentali per il denaro che non c'è, ma mi creda, ci sono problemi e altrettanto gravi per il denaro che c'è. Quando ce n'è, ce ne vorrebbe essere sempre di più, cioè c'è un'ossessione perché lo si desidererebbe e c'è un'ossessione perché se ne vuole sempre di più, una specie di bulimia. Ecco perché il tema del denaro, diciamo così, sul lettino dello psichiatra o in psichiatria è proprio un problema di come lo vive ciascuno di noi. Ed ecco perché il denaro finisce per essere oggi, usiamo un termine così molto popolare, un test per capire come noi siamo fatti e per accorgersi se ormai il denaro è proprio diventato qualche cosa che occupa i nostri pensieri. Allora testiamoci all'800 24 00 24. Ennio, buongiorno. Sì, chiama da Roma. Buongiorno a lei. Sì, buongiorno. Beh, ascoltavo la trasmissione, volevo dire al professore che non dobbiamo confonderci con la, diciamo, malattia per mancanza di denaro e invece praticamente la malattia per quello che riguarda ciò che il denaro ti causa, nel senso che rimanere senza denaro e non poter da far fronte a sopravvivenza per te e per la tua famiglia diventa, diciamo, sono due cose totalmente diverse. quindi cioè, sono legate, ma comunque sia non è il denaro in se stesso che ci fa, diciamo, andare fuori di testa, è il la mancanza di futuro, la mancanza di capire che cosa c'è più davanti se non hai più praticamente soldi per poter andare avanti. Questo che dico, a me è successo personalmente per fatti molto gravi accaduti in famiglia di rimanere proprio così, e devo dire che comunque sia, cioè, come parlavo prima signorina, cioè io sono uscivo di notte e vagavo per le strade come uno sbandato, perché certo, praticamente non potevo rimanere dentro casa, quindi voglio dire, fai presto poi a fare il passo per andare dallo psichiatra, capito, o dal neurologo in questo caso, ma non è per mancanza di denaro, è per quello che ti può accadere in questa società che più tempo che va tutta, diventa consumistica. Certo, che tutta centrata appunto sul denaro. Professor Andreoli. Sì, dunque, ma l'osservazione è molto chiara, però vede, il comportamento ed i disturbi mentali hanno tre campi. Il primo sono disturbi di pensiero, uno può persino delirare, può per esempio essere ricco e pensare di non aver denaro, può essere anche l'opposto, chi non ne ha e in qualche modo per il pensiero immagina di averne, il delirio quindi del pensiero. Ci può essere un altro campo che è quello degli affetti, non si è più in grado di voler bene alle persone proprio perché la preoccupazione del denaro impedisce appunto di stabilire legami d'affetto. Il terzo è il comportamento. È chiaro che c'è un comportamento di stampo sociale in cui le persone vivono male poiché sono appunto in cassa integrazione, poiché hanno pensioni insufficienti, ormai si parla addirittura del disagio della quarta settimana, perché alla quarta settimana di un mese non si hanno più soldi, e questo è l'aspetto sociale che ha tante radici e su cui io non ho molto da dire. Il mio quindi è un campo certamente limitato, ma sempre più diffuso, perché è sempre più la preoccupazione o la ossessione o il senso di mancanza, la dipendenza da denaro. Ma pensiamo a quelli che ogni mattina si alzano e vanno nella tabaccheria per il gratta e vinci, che dovrebbe giustamente chiamarsi gratta e perdi, e ci sono ormai gratta e vinci da 20 euro e sperano in quella mattina e attendono il mattino. Certo, sono piccoli comportamenti, ma dal comportamento si capisce qual è il nostro stato affettivo e mentale. Alberto, oltre ai ricchi e poveri, la complicanza è che non c'è più nessuna differenza tra giovani e anziani. Quando il denaro entra in testa, nella più giovane età, toglie spazio a molto altro. E questo da genitore lo avverto come un problema. Sì, io sono proprio d'accordo, e tra l'altro proprio in continuità con quello che diceva il professor Andreoli, credo per esempio che sia molto problematico avere figli adolescenti che se hanno 10 euro in tasca invece di comprare un libro o un CD vanno a comprare un gratta e vinci. Trovo che sia proprio uno totale stravolgimento di quelle che dovrebbero essere le priorità nel percorso di crescita. E tra l'altro ho terminato da poco insieme a dei colleghi una ricerca per esempio a Palermo fatta con gli adolescenti, e il dato ci mostrava che 2 ragazzi su 3 avevano già familiarità con tutto questo mondo del gioco d'azzardo, avevano speso soldi nell'ultimo mese per vincere soldi. La verità è giusta, la verità funziona, la verità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo, la verità in tutte le sue forme, la verità di vita, di amore. Da Wall Street, avidità, una parola che su cui bisogna proviamo a riflettere oggi insieme, proviamo a riflettere proprio quanto il denaro, la ricerca del denaro, il valore che diamo al denaro ha cambiato la nostra così lista delle priorità, le nostre relazioni. 800 24 00 24, abbiamo Alfio che ci chiama da Lucca. Buongiorno Alfio, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, eccoci qua Alfio. Dunque, io volevo fare una riflessione su quello che ho sentito in questi ultimi minuti, cioè la questione del denaro legata appunto al libro del professor Andreoli, la preoccupazione, l'ossessione da denaro, ovviamente sono tutti fenomeni, disturbi psichiatrici, mentali e così via. Tuttavia, con la finanziarizzazione del mondo accaduta negli ultimi 30 anni, i nostri territori, non si produce più nel territorio in cui si vive della roba da mangiare, non si produce più il necessario per la sopravvivenza, che si rimedia solo avendo denaro. Questa cosa secondo me è molto triste, molto dura, rende tutti molto meno liberi di quanto eravamo quando ero ragazzo io. Quando ero ragazzo mi ricordo che vivevo in campagna e la gente viveva di milioni di lavori di più strani, andare a opera, insomma andava a fare dei piccoli lavoretti, gli veniva dato da mangiare e così via. Oggi si mangia solo se si ha denaro. Quindi secondo me queste questioni di cui si è parlato finora non sono altro che le punte di un iceberg, ma siamo tutti drammaticamente vittima del denaro in quanto tale, perché è legato alla nostra stessa possibilità di sopravvivenza. Non so se mi sono fatto capire. Grazie. Cioè non si mangia se non si ha denaro, e questa cosa è terribile. Grazie Alfio. Alberto. Sì, anche se poi nel libro del professor Andreoli i bisogni che vengono soddisfatti dall'ossessione per il denaro sono bisogni che vanno al di là del cibo, che è uncinato alla sopravvivenza, sono in realtà bisogni che diventano una protesi vera e propria della nostra identità. E tra l'altro il professor Andreoli fu quello che fece la perizia nel caso di Pietro Masi, e cito testualmente dal libro: dopo aver ucciso entrambi i genitori per denaro, Pietro si comprò una potente BMW, il denaro come simbolo di potere, come espressione esibizionistica delle proprie possibilità. Allora il caso di Pietro Maso, professore, sconvolse l'Italia. Oggi, a distanza di tanti anni, si sente di dire che era solo un fenomeno che anticipava quello che oggi è sotto gli occhi di tutti, o fu una sorta di patologica anomalia? No, fu una un'anticipazione, perché vede, adesso ha ragione Alfio, è diventato un fenomeno molto diffuso, e per mostrare questa volta un caso estremo, certo diverso da quello di uccidere i genitori, io penso all'aver dato alla bellezza del nostro corpo, non del mio che sono vecchio, ma di quello degli adolescenti, dei giovani, di aver dato un prezzo e di sapere che quel corpo ha un valore, che si può mettere sul mercato, che quindi ci si può vendere. Lo so, io sono lo psichiatra dei casi estremi e vado sempre a trovare forse le cose che statisticamente non sono le più rappresentative, ma questo fa dolore quando appunto, mancando la percezione del futuro, perché il denaro bisogna averlo adesso, allora magari si riesce a vedere ciò che si ha e ciò a cui è stato dato un prezzo, il prezzo ad un corpo, e non è il piede di Maradona, che sappiamo, certo, che aveva un grande valore, talento, forse adesso è di altri calciatori, ma è il prezzo di un ragazzo, di una ragazza, è il prezzo di una persona, insomma, questo è veramente il senso, se vogliamo, della patologia, perché portare un uomo ad un prezzo e andare contro al senso stesso che l'uomo ha e ai suoi bisogni. Io voglio salutare Fiammetta Cicogno, una giovanissima attrice, conduttrice, volto di una famosa campagna pubblicitaria, che è in linea con noi. Fiammetta, buongiorno. Ciao e benvenuta. Senti Fiammetta, quanto è difficile oggi essere bella, giovane e lavorare nel mondo dello spettacolo senza rischiare di mettere il denaro al primo posto? Beh, appunto, come diceva il professore, rischiare di mettere il denaro al primo posto è molto difficile proprio per la sopravvivenza, ma anche per la sopravvivenza sociale, per qualsiasi cosa, per lo studio, per l'uscire in gruppo, purtroppo senza il denaro appunto non si può mangiare, ma non si può far nulla. Sicuramente nel mondo della televisione è quasi meglio mettere il denaro al primo posto che altro, perché abbiamo visto che si fa di tutto per comparire, e quindi metti appunto, ti vendi anche senza del denaro in cambio, ma anche ti vendi per l'apparenza, quindi quasi quasi in questo campo è meglio metterci il denaro. Però insomma, l'importanza più che altro non è il come metterlo al primo posto, ma è come con quello che tiri su, ecco, diciamola così, cercare di costruirti un futuro e avere il senso del denaro più che altro. Senti, io so che tu condurrai un programma tra poco, un docu-soap in cui racconterai l'epopea di 8 giovani tamarri, andrà su Italia 1. Chi sono questi tamarri e che rapporto hanno con il denaro? Allora, questi tamarri sono dei ragazzi, devo dire che sono dei ragazzi molto genuini che hanno risposto alla nostra, al nostro Tamarro cercasi, e il rapporto con il denaro loro è abbastanza, è differente, loro non ci fanno caso, sì, c'è di tutto e di più, perché c'è un ragazzo che invece si coltiva ad esempio da mangiare da sé, lavora nel suo paesino in Sicilia, da cui non è mai uscito, quindi lui ci diceva che non ne sentiva il bisogno, perché tanto lui poteva sopravvivere, stare bene con la sua famiglia, la sua donna, eccetera. C'è chi invece per tirare fine mese, un ragazzo che fa l'insegnante di tennis ai bambini la mattina e la sera fa lo spogliarellista, perché solo facendo così riesce a sbarcare il lunario, quindi insomma il denaro non è una variabile che differenzia. Devo dire che si articola un po' in base alla personalità di ciascun tamarro. Senti, Fiammetta, in bocca al lupo allora. Crepi. Essere e benessere. Se lavorerete in questa società guadagnerete il vostro primo milione di dollari in 3 anni. È chiaro? Ve lo ripeto. Voi farete $1 milione. In soli 3 anni. 3 anni dal primo giorno di impiego alla JT Marlin. Non c'è dubbio che diventerete milionari se lavorerete qui. Il solo dubbio è quanti milioni farete. Io sono un milionario. Strano sentirlo, vero? Vedete, è strano anche dirlo. Mi sembrate tutti affamati di soldi. È un bene. Chi dice che il denaro è la radice di tutti i mali non ha un soldo. Volete dettagli? Bene. Io guido una Ferrari 355 Cabriolet. Che altro? Vivo in una splendida casa, nel South Fork. Ho qualsiasi gioco a cui possiate mai pensare. Ma soprattutto, dispongo di liquidità. Da un chilometro da Wall Street io riprendo il passo con un messaggio che mi scrive Gianluca al 349-238-6666. Professor Andreoli, glielo leggo. Scusate, ma mi sembra un po' ipocrita la trasmissione oggi. Tutti parlano male dei soldi, ma sgomitano per casa, auto, abiti migliori. A voi li regalano? Professore. Ma devo dire, parliamo male quando il denaro acquista una dimensione che appunto è quella che riguarda uno psichiatra e quindi addirittura il disturbo mentale, ma non ne parliamo male perché riconosciamo al denaro nel suo ruolo di mezzo uno strumento utilissimo che facilita la vita, che ha cambiato la nostra storia e che addirittura ha permesso per esempio di passare da dei bisogni che primari allora erano la nutrizione, la difesa del territorio, insomma, e oggi invece i bisogni sono secondari, nel senso che riguardano più la nostra psicologia, certo, e il nostro look. Quindi è uno, come mezzo non ne parliamo affatto male, come denaro in testa ne parliamo male, perché condiziona addirittura i nostri sentimenti, quella bellissima storia che ha raccontato appena adesso nella ripresa della trasmissione è appunto per esempio un messaggio che se non hai denaro non hai potere, se non hai potere non sei nemmeno uomo, mentre i bisogni dell'uomo di oggi non sono legati al denaro, nemmeno la sua felicità. Caterina ci chiama dalla provincia di Como, 800 24 00 24. Intanto buongiorno e benvenuta, Caterina. Buongiorno. Dunque, io volevo portare la mia esperienza. Mi sono sposata che avevo 22 anni e ho sposato un uomo proprio con il denaro in testa. Lui non baciava i bambini, i suoi figli, ma il denaro prima di metterlo nel cassetto sì. E quindi dopo 25 anni di matrimonio naturalmente l'ho lasciato, però io e i miei figli siamo finiti dallo psichiatra e lui continua da solo ancora ad accumulare e odia i suoi figli perché l'hanno lasciato. Quindi io sono d'accordissimo col professore, quando il denaro in testa porta infelicità, non porta felicità. a nessuno, né ai figli, né alla moglie, né a chi gli sta intorno. È veramente un Dio che si impossessa dell'uomo. Il professor Andreoli ha detto: possiamo parlare, possiamo definirlo un virus. Insomma, le nostre nonne, il professor Andreoli, dicevano che il denaro non fa la felicità, ma aiuta, ma al giorno d'oggi possiamo dire che in alcuni casi fa ammalare. Andiamo a Tiziano, dalla provincia di Lecco. Buongiorno Tiziano. Buongiorno, mi sente? Sì, benissimo. Allora, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie. Io volevo focalizzare un po' l'attenzione sul concetto proprio di consumismo, come ha detto il dottore, che è l'unico modo per un po', diciamo, fuggire da questo sistema e quindi ricercarsi la felicità è quello di porsi la domanda, ciò di cui abbiamo bisogno, cioè porsi veramente, cioè evitare il superfluo. E lei se l'è fatta questa domanda e che risposta si è dato? Uno si fa la domanda proprio di cosa, quello di cui ha bisogno, quindi deve soddisfare solamente le esigenze primarie perché tutto il resto è superfluo. E come un po' come diceva Pasolini, una vita fatta di cose superflue rende superflua la vita. Grazie Tiziano. Ma io a Tiziano direi che possiamo essere anche un po' più possibilisti, no? Cioè, per me è molto importante magari a volte potermi concedere anche il superfluo, sentire che questo è un regalo che mi faccio, è un modo leggero per stare in un passaggio della mia giornata. Mi può molto piacere sentire anche che il mio lavoro, ciò che guadagno, posso anche destinarlo non solo allo stretto necessario, ma in parte anche al superfluo, che credo però sia ben differente dal fatto che ogni minuto della mia vita deve essere orientata a possedere più denaro e tutti i valori che adesso sono correlati, il denaro come status symbol, il vestito molto costoso che mi fa diventare agli occhi dell'altro probabilmente quello che io voglio che lui veda e non quello che c'è dentro di me, eccetera, eccetera, eccetera. È lì che probabilmente il denaro diventa un'ossessione e secondo me è lì che una persona perde la scala proprio gerarchica dei valori della propria vita, per cui il denaro si trova implicitamente a diventare uno strumento e non più un fine. E lo dico proprio lavorando anche con i genitori, lavoro tanto perché i miei figli devono avere tutto, nel momento in cui hanno tutto però rischiano di non avere la relazione con una madre o un padre che è la cosa a cui tengono di più, per cui è fondamentale lavorare proprio sulla costruzione di un equilibrio. Noi prima di andare a sentire le informazioni sul traffico, i consigli sulla viabilità, vi voglio ricordarvi i consigli che ogni giorno i nostri esperti vi lasciano, ci lasciano nel nostro laboratorio del benessere, un laboratorio che vi invito quotidianamente a consultare, ad entrare per imparare a prendervi cura di voi, del vostro benessere, per stare sempre un po' meglio o continuare a stare bene. Basta andare sul sito www.radio24.it, cliccare sul Daily Lab e voilà. Essere e benessere. Molti dei nostri ascoltatori ci mandano dei messaggi con delle richieste, in fondo un po' delle richieste di aiuto. Ad esempio, questo è arrivato a, fresco fresco, sono molto bravo a farlo il denaro, ma lo tratto con sufficienza e non riesco a tenermelo. Chiedo aiuto su che tipo di rapporto devo avere con il denaro. Allora, professore, io vorrei proprio chiedere a lei quali sono, ad esempio, i segnali, lo facciamo schematicamente, che ci fanno intuire prima che sia tardi, che il denaro sta prendendo il timone della nostra vita. Ma sul piano comportamentale è quando, per esempio, una persona è orientata tutta a pensare direttamente o indirettamente al denaro, o quando, come abbiamo noi stessi rilevato, nelle famiglie che già in cui già si parla poco, ma il tema dominante è sempre il denaro. Indirettamente, perché se si parla di vacanze, ma quanto costa quella scuola, quanto costa, cioè quando il denaro finisce per essere la preoccupazione dominante, ma proprio come dire, come un personaggio che occupa la scena di casa, che occupa la propria mente. Un altro punto è quando si comincia a sentirsi incapaci di vivere perché non si ha denaro. Questa è depressione da denaro. Così c'è la dipendenza da denaro. Dipendenza da denaro non si distingue da altre forme di dipendenza, come chi sta davanti sempre alla televisione, come c'è la dipendenza da shopping, la dipendenza da droghe chimiche. Insomma, è che tutto il mondo lo si riduce a denaro, e questi sono certo i segnali in cui la causa di tutto un malessere può essere proprio posta nel denaro. Però, se mi permette un secondo, il punto è stato toccato ed è quello di chiedersi, di monitorare, di chiedersi: ma quali sono i miei bisogni, quali sono i miei desideri? Perché ci sono dei bisogni per vivere serenamente, per vivere bene, è la sicurezza, è il non stare solo, la solitudine è veramente qualcosa che ci fa stare male, è un bisogno stare con gli altri, è l'avere un senso per gli altri. Pensi alle persone anziane, io sono vecchio ormai, avere un senso, cioè poter esprimere qualcosa, poter dare, poter essere utile agli altri. Ecco, l'uomo ha bisogno anche di gratificazioni, lo ricordava prima il dottor Pelai, bisogna avere qualche soddisfazione e non solo delle frustrazioni. Ecco, bisogna fare un bilancio dei nostri bisogni e un bilancio delle gratificazioni e delle frustrazioni, sperando che non dominino le frustrazioni. Bisogna quindi creare un equilibrio sui nostri bisogni, e di tutti i bisogni di cui ho parlato nessuno dipende dal denaro. Il denaro può essere utile per soddisfarli meglio, ma non è essenziale. Io voglio salutare, io citavo, dicevo, cerchiamo di capire se il denaro sta prendendo il timone della nostra vita, e a proposito di timone c'è qualcuno che ha molta familiarità con questo termine, è una storia che fa al caso nostro. Saluto Simone Perotti, ciao Simone. Ciao, buongiorno. Tu facevi il manager, lavoravi in azienda come tanta gente, poi dopo 19 anni hai detto basta, hai lasciato tutto e ora navighi, scrivi, racconti questa esperienza, due libri di grandissimo successo, adesso basta, ora in libreria con il tuo nuovo lavoro, avanti tutta, sempre di chiare lettere, e un sito da cui, Simone, io ho preso un breve estratto perché vorrei farlo sentire ai nostri ascoltatori e poi commentarlo con te, ci stai? Come no. Grazie. Al denaro attribuisco il valore dello strumento, nessun altro. A me ne serve poco per vivere. Quasi tutto quello che faccio, quello che mi interessa molto e fa parte della mia vita, costa poco. Non mi servono macchine ultimo modello, case a cortina, vestiti alla moda. Non ho bisogno di alcun oggetto particolare per essere felice. Ogni volta che compro qualcosa per me, sono contento per un paio di giorni, poi me ne dimentico. Ho anche notato che abbiamo tutti troppe cose, che vivremo meglio con meno oggetti. Chi ha molti soldi teme la crisi, fibrilla per le oscillazioni di borsa, studia come difendere le sue proprietà. Io guadagnavo molto bene e ora non ho più lo stipendio. L'ho fatto per essere libero, anche dal pensiero del denaro. Simone, tra l'altro in collegamento da New York, io insomma un cambio di vita radicale, alcuni dicono ma è impossibile, no? Bisogna avere dei soldi da parte, bisogna non avere dei figli di cui occuparsi, è troppo. Ma insomma è evidente che il denaro è anche una grande scusa, questo lo diciamo poche volte. Finché il pensiero del denaro è angosciante perché appunto non è abbastanza il denaro, noi siamo autorizzati a non muoverci, a non sognare, a non fare dei progetti, perché tanto non abbiamo il denaro per realizzarli. La componente del denaro, degli strumenti all'interno di un sogno, è essenziale per una percentuale molto più bassa di quanto non sia invece la componente del pensiero, della progettualità, della ispirazione che quel sogno richiede. Il problema è che il denaro sembra più facilmente acquisibile, spesso e volentieri, perché basta fare dei lavori, te ne danno in cambio un po', come se quei lavori non avessero un costo, come se per avere del denaro non dovessimo diventare tutti degli schiavi e degli automi che fanno la stessa cosa in milioni di persone ogni giorno, angosciandosi tra l'altro, oltretutto, neanche godendo. Insomma, di fronte a questo mi è sembrato abbastanza più semplice, tutto sommato, che cambiare vita. Mi è sembrato che occorresse meno coraggio che non andare avanti, ecco. Ma direi che il racconto di Simone Perotti è probabilmente proprio un po' il racconto della ricerca di un equilibrio, per trovare il quale lui ha dovuto fare un salto incredibile da quello che era a quello che è diventato. Ma il professor Andreoli, potremmo chiedere in conclusione se ci aiuta a trovare proprio tre gesti concreti, tre consigli da cui partire oggi stesso per rigenerare un equilibrio nonostante il denaro, ma anche con il denaro. Pensare ai propri desideri, ricordando che il desiderio è la capacità che ciascuno di noi è di pensarsi diverso domani, fondandosi sulle proprie caratteristiche e non su ciò che veste o sul denaro che ha. La seconda caratteristica è di guardare in faccia l'altro, di considerare che ciascuno di noi è molto fragile e proprio per questa fragilità ha bisogno dell'altro e che l'altro vale più di qualsiasi somma di denaro. L'amore, il voler bene, il rispetto ha un valore che non è possibile riportare in numeri, nemmeno in dollari. Questa è la seconda cosa. La terza cosa è di sapersi godere di ciò che uno è e di ciò che uno non ha. Ecco, questo è naturalmente il suggerimento di Fromm. Simone, vuoi aggiungere un consiglio da parte tua per chiudere la trasmissione? Magari tentare. Una riflessione. Tentare, dici tu, avere il coraggio di tentare? È tutto molto più semplice. È tutto molto più semplice di quanto si pensi. Io non sono ricco di famiglia, non ho proprietà immobiliari, non ho tesoretti nascosti, non attendo eredità, non ho nessuna condizione che mi abbia favorito in queste mie scelte. Sono la testimonianza provata che con due braccia, due gambe, un cuore, però questo certamente sì, è possibile fare, andare molto lontano, cambiare la propria vita, ed è tutto più semplice di quanto non sembri visto da fuori. Grazie a Simone Perotti, grazie al professor Vittorino Andreoli. Sulla pagina di Essere Benessere troverete naturalmente il nome dell'ascoltatore che riceverà a casa il libro di Vittorino Andreoli. Vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento a domani. Buonissima giornata. Essere Benessere.